Ok, quando sono le 18 e 12 minuti torniamo in studio, iniziamo a chiamare le compagne che hanno organizzato iniziative per l'8 marzo, tutte quelle che non siamo riuscite a sentire domenica mattina, e iniziamo da Niscemi. Pronto? Pronto. Ciao, ci senti? Ciao. Insomma, voi avete fatto un corteo con, insomma, compagni e compagne da tutta la Sicilia, quindi insomma una giornata abbastanza importante. Una giornata molto importante in cui ci siamo viste tutte e tutti. Noi ad esempio da Catania abbiamo portato il nostro contributo con un pullman comunque di ragazzi e ragazze che hanno scelto comunque di vivere questo 8 marzo a Niscemi. Lo stesso ha fatto Palermo, tanti sono arrivati anche da Messina e appunto, come dicevo, da Niscemi stesso ai paesi vicini. La giornata è iniziata appunto in paese ed è stato già un primo momento per appunto entrare in contatto diretto con i niscemesi e le niscemesi, soprattutto in questo caso soprattutto le mamme. C'è stato un giro di interventi, una, diciamo, possiamo dire una piccola, ecco, assemblea di presentazioni in un certo senso. E dopo alle 14:30 è iniziato invece, diciamo, spostare in contrada Ulmo, e lì insomma dove fondamentalmente il MUOS continua ad essere stato costruito e continua nonostante la sentenza del TAR essere attivo, e insomma siamo partiti appunto in corteo. È stato un corteo molto, cioè, chiaramente spiccatamente femminile, non per questo, anzi meno, diciamo, ecco, combattivo, voglio dire combattivo, esatto, sì, mi hai rubato la parola, esatto, combattivo, non per questo meno combattivo, tutt'altro. Chiaramente in testa appunto le più combattive, cioè le mamme non MUOS. Le più combattive, cioè le mamme non MUOS, che aprivano appunto con il loro striscione, al quale insomma si affiancava quello dell'assemblea delle donne non MUOS, che appunto raccoglieva tutte le compagne proprio siciliane che hanno contribuito alla costruzione della giornata. Durante il percorso, diciamo, in alcuni punti anche insomma simbolici per tutti, per la lotta, insomma, per chi questa lotta l'ha fatta, i punti in cui sono stati effettuati dei blocchi, in cui le mamme hanno resistito fondamentalmente alle forze dell'ordine, eccetera, sono stati bruciati dei fantocci, un fantoccio di Matteo Renzi, uno di Barack Obama. Insomma, a voler simboleggiare insomma quanta fiducia non si ha più, ecco, nei confronti di personaggi insomma che in teoria dovrebbero essere rappresentativi, cioè che ci dovrebbero rappresentare in qualche modo, alle quali in qualche modo ci dovremmo affidare. Insomma, questa è la risposta che il movimento tutto ha voluto dare, è il segnale che ha voluto dare. Abbastanza chiaro, direi. Abbastanza chiaro, devo dire, sì, decisamente chiaro. E soprattutto appunto, cioè, in diversi interventi è stato detto, cioè, le forze dell'ordine che presidiavano la base, che erano lì, insomma, se ci seguivano passo passo dall'altro lato delle reti, erano lì sempre, lo ricordavamo sempre quasi in ogni intervento, a difendere un'opera comunque dichiarata illegittima dallo Stato stesso, quindi ecco insomma in una contraddizione abbastanza, cioè, più evidente del solito, ecco, particolare. Quindi questo è un primo momento, ci siamo diretti poi appunto verso uno dei quattro cancelli della base, nel quale le mamme hanno portato, hanno incastrato tra le maglie di questo cancello le mimose. Contestualmente proprio a voler insomma ribadire, cioè a voler far presente che questo è un territorio, diciamo, un territorio di lotta, che è il movimento non MUOS è un movimento territoriale che, cioè, sempre di lotta comunque ha parlato, si è fatto un taglio simbolico, ovviamente sempre insomma tra compagne, sempre le compagne hanno fatto un taglio simbolico della rete. un tale simbolico della rete, che insomma appunto ha comportato qualche piccolo, diciamo, cioè le forze dell'ordine dall'altro lato sono minimamente, voglio dire, cioè, riscaldate, diciamo, probabilmente non so, non se l'aspettavano, eccetera, ma era comunque, era stato un gesto insomma di pochi minuti, a voler dire che sì, le mimose sicuramente, ma anche le cesoie che insomma abbiamo usato, non abbiamo avuto paura di usare e che comunque continuiamo a usare, ecco. Insomma, sì, quindi una giornata di lotta impegnativa, anche piena di tanti contenuti. Ma adesso come continuerà questa battaglia, visto dopo la sentenza del TAR, per esempio? Ma dopo la sentenza del TAR Niscemi sono già ripresi prima ancora di questo 8 marzo, sono già ripresi i blocchi che bloccano i mezzi e gli operai, che continuano appunto a lavorare diciamo in questo cantiere, il cantiere di quest'opera, quindi a entrare, a uscire mezzi sia di militari americani ma anche di operai comunque italiani, eccetera. Quindi ci sono, sono state organizzate delle colazioni, sono stati uno dei primi diciamo uno dei primi momenti organizzati dal movimento Romuos, appunto per creare dei danni o dei ritardi a questa base, delle colazioni quindi in contrada Ulmo, che servono appunto a bloccare e ritardare questi mezzi. Già da prima dell'8 marzo c'è stato questo 8 marzo, proseguiranno chiaramente i blocchi e poi insomma già sappiamo di questa data nazionale, che speriamo sia più insomma grande possibile, che più insomma che veramente riporti sul piano appunto nazionale, diciamo, questa lotta, che sarà il 4 aprile. Ok, perfetto. Quindi direi che vabbè, invitiamo i compagni e le compagne ovviamente, certo, a visitare il vostro sito innanzitutto per seguire la battaglia Nomuos, che è nomuos.info se non sbaglio. Allora, nomuos.info è nomuos.info, dove si trovano appunto le informazioni, diciamo, dei comitati cittadini, del coordinamento dei comitati. Lascio anche insomma il contatto appunto del nostro collettivo, che si chiama Collettivo Aleph, che appunto ha seguito in questa occasione in tante altre questa battaglia, ecco, questa lotta. Insomma, è stato uno degli attori di questo movimento, pur non essendo uno tra i comitati, ecco. Perfetto, allora noi ti ringraziamo per questo resoconto. Grazie. E direi che a questo punto ci risentiamo in prossimità del 4 aprile per capire, certo, come sta andando la costruzione del corteo, soprattutto per invitare tutte e tutti a scendere. Certo, grazie mille. Grazie, ciao.